Radio 24 Reportage. Grecia, viaggio nella crisi della classe media, di Dario Ricci. La Grecia è sull'orlo del baratro, questa la fredda analisi del suo presidente Papoulias. Intanto l'agenzia di rating Moody's lancia l'allarme di un rischio contagio per i sistemi bancari di alcuni dei principali paesi europei come Portogallo, Spagna, Italia, Irlanda e Gran Bretagna. Crisi dell'Europa, crisi dell'euro, crisi di un paese, la Grecia, ma anche e soprattutto crisi della classe media, ellenica e continentale. Viste dall'Acropoli, le vittime dello stallo dell'Eurozona hanno nomi e cognomi ben precisi. Sono impiegati, dipendenti pubblici, piccoli imprenditori che pagano gli errori del passato e oggi le nuove politiche del rigore imposte dalle crepe apertesi nel tessuto di Eurolandia. Panagiotis Patellis è il più noto fiscalista greco, dei suoi connazionali conosce tutti i vizi e le virtù, soprattutto nel rapporto con un fisco d'improvviso fattosi molto più esigente che in passato. Il tasso dell'evasione in Grecia negli ultimi decenni è stato elevatissimo perché non è stato nessun controllo da parte dello Stato. Se nel 2009 6 su 10 erano evasori fiscali, oggi, 2 anni e 2 anni e mezzo dopo, 7 su 10 sono evasori fiscali. L'evasione, questo storicamente lo sanno tutti gli studenti di economia, che dal momento che arrivano i tassi sui 45%, l'unico problema che ha ogni imprenditore è di come evadere, perché ovviamente non riesce a pagare le tasse. Aumenta l'evasione e ovviamente crollano gli incassi dello Stato. Ma all'uscita dall'euro, lei ci crede? È un'ipotesi realistica? Si potrebbe davvero tornare alla dracma? L'uscita dall'euro non è possibile. Non è possibile perché penso che il costo che avrà la comunità europea è molto maggiore rispetto ai 130 miliardi di prestito in Grecia. Penso siamo dentro un'Europa, penso che tutti i paesi, tutti i popoli possono cambiare questa Europa e allora non è possibile di lasciarsi la Grecia da sola o la Spagna da sola o il Portogallo o l'Italia. Sono paesi che devono essere alleati, sono paesi che possono cambiare complessivamente l'Europa, specialmente a favore della produzione e a favore dei popoli che abitano e non a favore dei mercati e delle banche. Scenari macroeconomici, strategie, politiche, finanziarie. Ma cosa vuol dire vivere ad Atene, in Grecia, al tempo della crisi? Basta bussare alla porta di un elegante condominio del quartiere di Melissia, mezz'ora di taxi dal centro città, per capirlo. Ursula e Kostas sono una giovane coppia italo-greca. Entrambi lavorano in aziende private, nel settore marketing. Prendere un caffè nel loro salotto ci fa capire tante cose. Allora, nel quartiere di Melissia, a casa di Ursula e Kostas, due nostri amici, una coppia italo-greca che lavora e vive qui ad Atene. Sul divano c'è la nonna con la piccola Carmen, appena arrivata da poco più di un mese, e magari poi ci dirà anche lei qualcosa a suo modo. Si prende un caffè qui ad Atene e si ragiona insieme intanto sul futuro di Carmen, che è anche il futuro poi di questo paese in qualche modo, no? Ursula, ecco, tu che sei venuta qui ad Atene appunto per costruire la tua vita, la tua famiglia, come stai vivendo questo momento di crisi della Grecia e in cosa incide nella tua vita quotidiana questa crisi? Qua c'era molto più lusso 3 anni fa e io mi stupivo di tutta questa ricchezza, questi macchinoni, tutte queste ragazze vestite firmatissime, che io dicevo, ma cavolo, io vengo da Milano, cioè la capitale della moda, mi guardo in giro, sembra una barbona qua. E adesso con la crisi un po' sono cambiate le cose, però diciamo che non hanno ancora cambiato un po' lo stile di vita. Qua la vita è molto più cara, anche adesso. Per l'abbigliamento è tipo un 30-40% in più rispetto all'Italia. Se esci, vai, prendi un tosto, una Coca-Cola, sono già 15 euro. Pagare un parcheggio ad Atene, allora sono 7 euro all'ora. È da 2 anni che noi veramente viviamo in austerità. Hanno aumentato le tasse, hanno aumentato l'IVA. Dal 19 al 23%, dall'oggi al domani. È aumentato il biglietto della metropolitana da 1 euro a 1,50 euro. Quindi non lamentatevi a Milano, ok? sono aumentate le tasse e non solo. 3 anni fa hanno iniziato a dare l'opportunità a tutte le persone per cercare di non avere più nero, di scaricare dalle tasse che tutti gli scontrini, ma vuol dire anche l'abbigliamento, il ristorante, quindi abbiamo iniziato a raccogliere tutte le spese. Una volta dichiarato tutto, l'anno scorso, oltre a tutte le tasse che abbiamo pagato, ci è arrivata una bella letterina con altri soldi ancora da pagare, che abbiamo appena finito di pagare l'ultima rata. In più si sono abbassati anche gli stipendi. Tante aziende, la gran parte delle aziende greche, pur di non licenziare, hanno diminuito proprio lo stipendio netto. Cioè, oltre alle tasse, hanno anche diminuito lo stipendio netto. Hanno diminuito anche il minimo per la disoccupazione, per la maternità, che prima erano sui 700 rotti euro, penso, adesso sono sui 500 rotti euro. E a tutti i dipendenti statali e ai pensionati hanno tolto la 13esima e la 14esima, quindi soprattutto sui pensionati che grava tantissimo questa crisi, e anche ovviamente sulle persone che magari prima prendevano 700 euro al mese e adesso ne trovano 500. Cioè, vivere ad Atene con 500 euro al mese, col costo della vita che avete visto anche voi, è veramente è difficile, è dura. Questo paese era tipo i Dubai senza il petrolio, c'erano troppi soldi in giro, tante volte non meritati, altre volte meritati, però erano troppi soldi in circolazione sull'economia, che venivano da mutui che si faceva il governo per distribuire, per finanziare tutti i debiti che c'erano sulla produttività di questo paese. E a un certo momento si è saputo che abbiamo debiti, e più di quanto si può ripagare, diciamo così. E alla fine non ci davano più i finanziatori, diciamo, del mercato, e siamo arrivati su questa situazione dal 2009 in poi. So se siete mai stati al Bouzoukia, che è questo spettacolo dove ci sono cantanti greci che cantano dal vivo live, la sera, live, cantanti famosi. Ci sono queste tavolate immense, costa tipo dagli 80 ai 150, 200 euro con un drink e qualcosina. Però ti fai tutta la serata e poi dopo verso le 2-3 di notte salgono tutti sui tavoli, ti buttano i petali dei fiori addosso, c'è una seratona. Però lì magari ti spendevi 500 euro una serata. Capisci che quando tu sei in compagnia e vedi anche come ragazza che quella della borsa di Louis Vuitton, gli occhiali di Dolce Gabbana o la borsa di Gucci, vanno tutti al Bouzoukia, vanno nelle isole, cioè hanno un tenore di vita, i tuoi colleghi... Così, cioè, o fai parte della compagnia o non fai parte. Succedeva questa roba, ma adesso succede molto meno. Il fatto è che non si sa se la gente effettivamente ha capito che questi erano prestiti e quindi devono essere pagati. Se capiscono che devono prima o poi questa acquisito benessere essere ripagato con i suoi interessi, andremo avanti. Se non lo capiscono, non so cosa faremo esattamente, e ritorneremo 40 anni dietro o 50 anni dietro, non è che ci sia un limite. Quando cadi. 2 anni fa tutti mi puntavano tutto contro, voi greci per colpa vostra, adesso che anche l'Italia è nelle stesse nostre acque sono tutti un po' più cheti, no? Io dico benvenuti nella crisi, oppure quando parlo con i miei parenti spagnoli che si mettono a piangere, c'è disoccupazione e tutto, io dico ragazzi, questa spalla qua non appoggiate nessuno, niente a questa spalla, perché noi siamo messi peggio, quindi se caso sono io che devo piangere sulle vostre spalle, non venite a piangere sulla mia spalla, perché proprio penso che lo sanno tutti, cioè anche penso l'ultimo stato piccolo in Africa conosce chi è la Grecia. Una carezza alla piccola Carmine, l'abbraccio di Ursula e Costas sono il modo migliore per provare a guardare oltre la crisi. Ci rituffiamo nelle strade del centro di Atene, dallo studio di Ioannis Tsamichas, avvocato e presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica, si vedono Piazza della Costituzione e il Parlamento. Da qui proviamo a immaginare la Grecia che verrà dopo le elezioni del 17 giugno. Il nuovo governo che sarà fatto quando sarà fatto? Spero presto. Per la esistenza del mio paese, deve procedere alle riforme della tassazione. Se vogliamo prendere gli investimenti in Grecia, che non mancano gli scienziati e gli economisti in Grecia, che possono portare avanti l'economia greca. È sabato sera, i giovani ateniesi si ritrovano per le strade del centro, bicchiere con un drink in mano, qualche birra, la sigaretta, la musica alta, anche così si prova a dimenticare la crisi e a superare la malinconia di queste ore difficili per Atene e per la Grecia.